in questa fantastica lettura di questo libro completamente sconsiderato, che va a ripescare tutte le leggende che ruotano intorno al Capitano Mission che abbiamo introdotto nella Febbre del Ragno Rosso. Come sappiamo, il Capitano Mission alla fine del libro, nella Febbre del Ragno Rosso, muore e non riesce a incoronare il suo desiderio, il suo sogno di fondare questa comunità che si chiama Libertatia. In questo libro Barrocks scavalca il suo immaginario e si domanda cosa sarebbe successo se il Capitano Mission fosse sopravvissuto. Bene, vi lascio con Breed di Nirvana un pochino e poi ritorniamo con il capitolo 1 che si chiama L'ufficiale sanitario. Io ricevo messaggi di minacce che non so perché mi sono rivolti, non rispondere la mattina al telefono, lasciami da solo, ma quando mai? Oh mio Dio, ma è vero! Vabbè, insomma, il gioco del tondino ve lo ricordate tutti, noi lo stiamo praticamente esportando nei vari continenti del globo. Fate il tondino ai vostri amici e alle vostre amiche perché fa bene allo spirito. Eccoci di nuovo qua, io sono Lorenzo, vorrei saltare di proposito una pagina, che è la pagina che precede il libro primo di questa raccolta, che si chiama Invocazione, perché è veramente molto complicata, ci sono elencati quasi tutti i personaggi, quindi preferisco leggerla alla fine. È molto emblematica anche la parte finale di questa invocazione, però ve la lascio fra 5-6 mesi quando finiremo questo libro di 248 pagine. Ma non vi preoccupate, perché suonano sotto di noi Nirvana, che ci danno un sacco di gioia e carica. 11:26, cominciamo con il programma letture. Io sono Lorenzo e stiamo per iniziare Le città della notte rossa. L'ufficiale sanitario. 13 settembre 1923. Farnsworth, l'ufficiale sanitario distrettuale, era un uomo talmente ingrugnato nelle sue aspettative della vita che ogni vittoria era una sconfitta. Però non era privo di una certa pesante tenacia ed efficienza nel suo limitato ambiente. L'attuale stato di emergenza, posto dalle inondazioni e dalle conseguenti epidemie di colera, non costringendolo ad alcuna attività insolita, lo trovava padrone di sé. Ogni mattina, all'alba, ammucchiava le sue carte geografiche bisunte, che studiava a colazione mentre si leccava via il burro dalle dita, nella sua scassata Land Rover, e usciva a ispezionare il suo distretto, fermandosi qua e là a ordinare altri sacchetti di sabbia per gli argini. ordinava a 3 astanti, presumibilmente parenti, di trasportare un caso di colera all'ospedale distrettuale di Vakhsh e lasciava 3 palline di oppio e le istruzioni per preparare l'acqua di riso. Loro annuivano e lui se ne andava, avendo fatto quello che poteva. L'ospedale d'emergenza a Vakhsh era installato in una caserma rimasta vuota dai tempi della guerra. Scarseggiava in personale ed era sovraffollato, per lo più di pazienti che vivevano abbastanza vicino ed erano ancora in grado di camminare. La cura per il colera era semplice. Si dava a ciascun paziente un pagliericcio e un gallone di acqua di riso e mezzo grammo d'oppio. Se dopo 12 ore era ancora vivo, la dose di oppio era ripetuta. La percentuale di sopravvivenza era di circa il 20%. I pagliericci dei morti venivano lavati in una soluzione di acido fenico e lasciati al sole ad asciugare. Gli infermieri erano in maggior parte cinesi, che avevano accettato l'incarico perché potevano fumare l'oppio e dare poi le ceneri ai pazienti. L'odore del riso bolliva, del fumo, dell'oppio, degli escrementi e dell'acido fenico permeava l'ospedale e l'area circostante per diverse centinaia di metri. Alle 10 l'ufficiale sanitario entrò in ospedale. Requisì, dall'altro, acido fenico e oppio e inviò un'altra richiesta per un dottore, con la speranza che venisse ignorata. Gli sembrava che un dottore, a far casino in giro per l'ospedale, avrebbe solo peggiorato le cose. Avrebbe anche potuto sollevare obiettivi sul sondaggio dell'oppio, ritenuto troppo alto, o cercare di interferire con il fatto che gli infermieri fumassero oppio. L'ufficiale sanitario aveva poca stima dei dottori, complicavano solo le cose per sentirsi importanti. Dopo aver passato una mezz'ora in ospedale, andò in macchina a Gadish a vedere il commissario, che lo invitò a colazione. Accettò, senza troppo entusiasmo, declinando l'offerta di un gin prima di colazione e di una birra a colazione. Spiluzzicò il riso e il pesce e mangiò un piattino di frutta cotta. Stava cercando di convincere il commissario ad assegnargli qualche carcerato per lavorare agli argini. Spiacente, vecchio mio, non ci sono abbastanza soldi per sorvegliarli. Beh, ma ascolta, è una situazione molto seria. Sì, direi proprio di sì. Farnsworth non insistette. Faceva semplicemente quello che poteva e poi lasciava perdere. I nuovi del posto si domandavano cosa lo tenesse in azione malgrado tutto. I vecchi come il commissario lo sapevano, perché l'ufficiale sanitario aveva un vizio che lo sosteneva. Ogni mattina, al levar del sole, si faceva una teiera di tè forte e insieme ci buttava giù un grammo di oppio. Quando tornava delle sue rondi serali, ripeteva la dose e la lasciava il tempo di fare effetto prima di prepararsi una cena di frutta cotta e pane nero. Non si teneva un ragazzo in casa perché temeva che un boy potesse rubargli l'oppio. 2 volte la settimana lasciava entrare un boy a pulire il bungalow e allora chiedeva l'oppio in una vecchia cassaforte arrugginita dove teneva le relazioni. Prendeva oppio da 5 anni e aveva fissato il dosaggio dopo il primo anno. Non l'aveva mai aumentato, ne era passato alle iniezioni di morfina. Questo non perché di carattere, ma semplicemente per il fatto che sentiva di dover ben poco a se stesso e questo era quello che ci concedeva. Yeah. Al ritorno, trovando che i sacchetti di sabbia non c'erano, che il paziente di colera era morto e che i tre parenti avevano le palpebre cascati per via delle palline d'oppio che avevano lasciato, non sentì né rabbia né esasperazione, solo la leggera mancanza che era venuta aumentando nell'ultima ora del suo giro e quindi permetteva più forte sull'acceleratore. Arrivato al suo bungalow, mandò giù una pallina d'oppio con dell'acqua minerale e accese la stufa a cherosene per farsi del tè. Portò il tè sotto il portico e appena ebbe finito la seconda tazza, cominciò a sentire l'oppio che gli fluiva giù dalla nuca e fino alle cosce rinsecchite. Poteva passare per un uomo di 50 anni, in realtà ne aveva 28. Rimase seduto una mezz'ora a guardare il fiume fangoso e le basse colline coperte di cespugli. C'era un brontolio di tuono e mentre si cucinava il pasto della sera, le prime gocce di pioggia cadevano sul tetto rugginoso di ferro zincato. Si svegliò nell'insolito rumore dello sciacquo dell'acqua, si infilò in fretta i pantaloni e uscì sul portico. La pioggia continuava a cadere. L'acqua durante la notte era salita a mezzo metro sotto il bungalow e a pochi centimetri dai mozzi della sua Land Rover. Mandò giù un'altra pallina d'oppio e mise l'acqua sulla stufa per il tè. Poi spolverò una sacca di Glenstone e pelle di coccodrillo e si mise a riempirla, aprendo cassetti e divisori della cassettiera. Mise via abiti, rapporti, una bussola, un coltello in una guaina, un revolver Wembley 45 e una scatola di munizioni, fiammiferi, più una cucinetta da campo. Riempì la borraccia di acqua da una bottiglia e avvolse nelle carte una forma di pane. Versandosi il tè, con l'acqua che gli cresceva sotto i piedi, sentì una tensione all'inguine, un'ondata di bramosia adolescente tanto più forte quanto inesplicabile e inopportuna. La scorta di medicinali e l'oppio li mise in una borsa a parte e come ulteriore precauzione, un pezzo d'oppio grande quanto un pacchetto di sigarette avvolto in una stagnola pesante, finì nella tasca laterale. Ora che ebbe finito di fare le valigie, i pantaloni gli stavano tesi sulla patta, l'oppio avrebbe presto sistemato anche quello. Fece un passo dal portico fin dentro la Land Rover. Il motore si avviò e lui si diresse verso terra, alta, sopra la piena. La strada che prese veniva usata raramente e più di una volta dovette tagliar via alberi dalla strada con un'ascia. Verso il tramonto raggiunse la missione medica del padre Dupré. Era fuori dal suo distretto e aveva visto il prete una sola volta prima di allora nella sua vita. Padre Dupré, un uomo esile, con la faccia rossa e un'aureola di capelli bianchi, lo salutò cortesemente ma senza troppo entusiasmo. Divenne un po' più allegro quando Farnsworth tirò fuori i suoi medicinali e andò con lui al dispensario e ospedale, che era semplicemente una grande capanna con stuoie per pareti. L'ufficiale sanitario distribuì palline d'oppio a tutti i pazienti. «Qualunque cosa sia, la cosa non gli fa male, si sentiranno molto meglio tra poco». Il prete annuì distrattamente mentre lo prendeva tornando a casa. Farnsworth aveva inghiottito la sua pallina d'oppio con l'acqua della borraccia e stava cominciando a fare effetto quando si sedette sotto il porticato. Il prete lo stava guardando con un'ostilità che faticava a nascondere. L'ufficiale distrettorio si chiese cosa c'era che non andasse. Il prete si agitò e si schiarì la gola. Disse improvvisamente, in tono forzato, «Vuole un drink?» «Grazie, no, non bevo proprio mai». Il sollievo inondò il volto del prete di una luce benevola. «Ma qualcos'altro, allora?» «Ma mi piacerebbe molto un tè». «Certo, dirò al boy di farlo». Il prete tornò con una bottiglia di whisky, un bicchiere e un sifone di soda. Farnsworth dedusse che doveva tenere il whisky sotto chiave e in qualche posto fuori dalla portata dei suoi boy. Il prete se ne versò quattro dita abbondanti e ci sparò sopra una spruzzata di soda. Fece una gran sorsata e si svolse raggiante all'ospite. Egli decise che il momento era propizio a chiedere un favore al prete, fintando che il buon padre era ancora sollevato per non dover dividere la sua risicata riserva di whisky e prima che ne bevesse coccolato troppo. «Voglio tentare di arrivare a Gadish, se possibile, signor prete. Immagino che sia folle andarci via terra, anche se avessi abbastanza benzina». Il prete prese una carta e la spiegò sul tavolo. «Questo è assolutamente fuori questione. Tutta la zona è allagata L'unica possibilità è con la barca fin qui, da laggiù sono 40 miglia, giù per il fiume fino a Gadish. Potrei prestarle una barca con un buoy, un fuoribordo, ma qui non c'è benzina. Credo di avere abbastanza benzina, considerando che è tutta con la corrente a favore. Ma lei troverà dei brocchi di tronchi galleggianti, potrebbero volerci ore per attraversarli. Pensi al massimo che lei ci vorrebbe un po' e lo raddoppi. Il mio boy conosce la strada solo fino a qui. Ora, questa parte è molto pericolosa. Il fiume si stringe improvvisamente, neanche un po' di rumore, capisce? E neanche un segnale. Le consiglio di tirar fuori la canoa e portarla giù fin qui. Ci vorrà un giorno in più, ma sarà ben speso e in questo periodo dell'anno. Certo, potrebbe anche farcela passare, ma se qualcosa andasse male, la corrente, capisce? Anche un buon nuotatore mi sa che... Il giorno seguente, all'alba, gli oggetti di proprietà di Farnsworth e le provviste per il viaggio vennero caricate sulla canoa scavata in un tronco. Il ragazzo, Ali, era color nero fumo, con i lineamenti marcati, chiaramente un incrocio di sangue arabo e nero. Aveva circa 18 anni, denti bellissimi e un sorriso timido e pronto. Il prete salutò con la mano dal pontile, mentre la barca virava in mezzo alla corrente. Farswan sedeva appoggiato piegamente all'angolo, guardando l'acqua e la giungla che scivolavano via. Non c'erano molti segni di vita. Qualche uccello e qualche scimmia, tre alligatori in ozio su un banco fangoso che scivolavano in acqua, mostrando i denti in sorrisi depravati. Più di una volta ci si dovette aprire un varco dai grovigli di tronchi a colpi di scure. Al calare del sole si accompagnarono su un banco ghiaioso. Farnsworth mise sull'acqua per il tè, mentre Ali si andava all'estremità del banco e lasciava un amo con l'esca in una pozza profonda e limpida. Quando l'acqua cominciò a bollire, tornò con un pezzo di pesce di 60 centimetri. Mentre Ali puliva il pesce e lo tagliava a pezzi, Farnsworth mandò giù la sua pallina doppio. Ne offrì una ad Ali, che la esaminò, la annusò, sorrise e scosse la testa. Ragazzo cinese, si chinò in avanti tenendo una pipa immaginaria su una lampada. Tirò dentro il fumo e lasciò cadere le palpebre. No prendere. Si mise le mani sullo stomaco e dondolò avanti e indietro. Il pomeriggio del secondo giorno il letto del fiume si era notevolmente allargato. Verso il calare del sole, Farnsworth prese una pallina doppio e si appisolò. Improvvisamente si trovò svegliato con un sobbalzo e cercò la carta. Era questo il punto su cui padre Dupré l'aveva messo in guardia. Si voltò verso Ali, ma Ali lo sapeva già. Stava cercando di virare verso riva. La spinta silenziosa della corrente prese la barca di lato e il cavo del timone schioccò come una corda d'arco. La barca guizzò fuori controllo, lanciandosi contro un ammasso di tronchi, uno schianto tremendo, e Farnsworth andò sott'acqua, lottando disperatamente contro la corrente. Sentì una fitta di dolore quando un ramo gli strappò la giacca e gli graffiò un fianco. Rinvenne sulla riva. Ali gli stava facendo uscire l'acqua dai polmoni. Si alzò a sedere, respirando pesantemente e tossendo. La giacca era a brandelli, intrisa di sangue. Si tastò la tasca e rimase a guardare la mano vuota. L'oppio non c'era più. Aveva un graffio superficiale tra l'anca sinistra e la natica. Non avevano salvato nient'altro che il corto macete che Ali portava in fodero alla cintura e il coltello da caccia di Farnsworth. Egli tracciò una mappa sulla sabbia per stabilire la loro posizione approssimativamente. Calcolò che la distanza fino a uno dei maggiori tributari fosse di circa 50 miglia. Una volta là, avrebbero potuto mettere insieme una zattera e farsi portare dalla corrente fino a Gadish, dove naturalmente... E gli tornarono in mente le parole di padre Dupré. Pensi al massimo che le ci vorrebbero o poi lo raddoppi. Si stava facendo buio e dovevano fermarsi lì per la notte, anche se così avrebbe perso tempo prezioso. Sapeva che in 72 ore al massimo sarebbe rimasto immobilizzato dalla mancanza di oppio. All'alba partirono diretti a nord. Il cammino era lento, bisognava tagliare cespugli a ogni passo. C'erano paludi e corsi d'acqua sul percorso e di tanto in tanto qualche gola che costringeva lunghe deviazioni. Lo sforzo insolito gli ripulì l'oppio dall'organismo e al calare della notte era già febbricitante e pieno di brividi. Al mattino riuscì appena a camminare, ma si arrangò e trascinarsi per qualche miglia. Il giorno dopo aveva le convulsioni per i crampi dello stomaco e fecero un miglio scarso. Il terzo giorno non riuscì proprio a muoversi. Ali gli massaggiò le gambe, che erano irrigidite dai crampi, e gli portò acqua e frutta. Rimase sdraiato, incapace di muoversi, per 4 giorni e 4 notti. Ogni tanto si addormentava e si svegliava urlando per gli incubi. Spesso sognava attacchi di centopiedi e scorpioni di strane dimensioni e sembianze che si muovevano con grande velocità e lo assalivano di colpo. Un altro incubo ricorrente era ambientato sul mercato di una città meridionale. Il luogo gli era dapprima sconosciuto, ma diventava familiare a ogni passo che faceva, anche se spaventandosi, i tasselli di memoria stessero lentamente tornando ognuno al suo posto. I banchi, tutti vuoti di cibi e di mercanzie, l'odore della fame e della morte, il bagliore verdastro di uno strano sole fumoso, l'odio sulfureo, incandescente, nelle facce che si voltano a guardarlo mentre passa. Adesso tutti lo stavano indicando e gli gridavano una parola che non riuscì a capire. Era il mercato... L'ottavo giorno riuscì di nuovo a camminare. Era sempre distrutto dai crampi dello stomaco e della diarrea, ma i crampi alle gambe erano quasi passati. Il decimo giorno si sentì nettamente meglio e riuscì a mangiare un pesce. Al 14° giorno arrivarono a un banco di sabbia di fianco a un ampio fiume pulito. Non era il tributario che stavano cercando, ma dovevano certamente andarci. Ali aveva conservato un pezzo di sapone dell'acido fenico in una scatola di latta e si tolsero gli abiti a brandelli, si immersero nell'acqua fresca. Farnsworth si lavò via lo sporco e il sudore e l'odore del suo male. Ali gli stava storfinando il sapone sulla schiena e Farnsworth sentì un improvviso afflusso di sangue all'inguine. Cercando di nascondere la sua erezione, guidò fino a riva con la schiena verso Ali, che lo seguiva ridendo e spruzzando acqua per lavar via il sapone. Farnsworth si sdraiò sulla camicia e sui pantaloni e cadde in un vuoto senza parole. Sentendo il sole sulla schiena e i lievi dolori del graffio che guariva, vide Ali seduto nudo sopra di lui, le mani di Ali che gli massaggiavano la schiena si spostavano in giù verso le natiche. Qualcosa stava emergendo nel suo corpo, aleggiava su dai remoti abissi della memoria e lui vide come proiettato su uno schermo uno strano episodio della sua adolescenza. Era al British Museum, all'età di 14 anni, e stava di fronte a una teca di vetro. Era solo nella sala. Nella teca c'era una sagoma, lunga poco più di un mezzo metro, di un uomo piegato all'indietro. L'uomo era completamente nudo, con il ginocchio destro piegato, il corpo a pochi centimetri dal suolo, il pene completamente nudo. Le mani erano tese di fronte all'uomo, con le palme in giù, e la faccia era rettile o animale, qualcosa a metà tra un alligatore e un giaguaro. Il ragazzo stava guardando le cosce e le natiche e i genitali, respirando tra i denti. Gli stava venendo un'erezione e umido con i pantaloni tesi sulla patta. Si stava spremendo dentro la figura, una tensione di sogno che si raccoglieva all'inguine, contraendosi, uno strano odore diverso da qualsiasi cosa avesse mai fiutato prima, eppure molto familiare. Un uomo nudo, sdraiato di fianco a un ampio fiume limpido, la figura contorta. Punti argentei ribollirono davanti ai suoi occhi ed eiaculò. Le mani di Ali gli separarono le natiche, gli spuntò sul retto, il corpo che gli apriva e la figura che entrava in lui in uno slancio silenzioso, piegandogli il ginocchio destro, stringendogli la mascella in avanti e in un muso d'animale, la testa gli si appiattì, il cervello si spremeva fuori, l'odore da dentro. Era un aspro suono sibilante. Fu costretto fuori dalle sue labbra e una luce gli esplose negli occhi mentre il suo corpo ribolliva e sputava spruzzi roventi. Palcoscenico con un fondale di giungla, gracidi di rane e richiami di uccelli da un magnetofono. Farnsworth, adolescente, è sdraiato a faccia in giù sulla sabbia. Ali sta facendo sesso con lui e si dimena in un lento moto pigro mostrando i denti in un sorriso depravato. Le luci si attenuano per qualche secondo. Quando tornano, le luci... Farnsworth indossa un vestito di coccodrillo che gli lascia il culo nudo e Ali lo sta ancora scopando. Mentre Ali e Farnsworth scivolano fuori scena, Farnsworth solleva un dito palmato verso il pubblico e intanto una banda di Marines suona sempre fi, rumore di schizzi d'acqua e fuori campo. Yeah. Capitolo 2. Vediamo il Tibet con il binocolo del popolo. La pattuglia di esploratori si fermò a qualche centinaio di metri dal villaggio sull'argine di un torrente. Yen Li studiò il villaggio attraverso il binocolo, mentre i suoi uomini si sedevano e si accendevano le sigarette. Il villaggio era costruito sul fianco di una montagna. Il torrente scorreva tra le case e l'acqua era stata deviata tra i bacini su una serie di terrazze coltivate che si susseguivano fino al monastero. Non c'erano segni di vita nelle ripide strade tortuose né vicino agli stagni. La valle era disseminata di grandi macigni che potevano servire come riparo in caso di necessità, ma non si aspettava resistenza su un piano militare. Abbassò il binocolo e fece segno agli uomini di seguirlo. Attraversarono un ponte di pietra a due per volta, coperti dagli uomini dietro di loro. Su qualche difensore stava per aprire il fuoco. Questo era il momento di farlo. Oltre il ponte, la strada si snodava su per il fianco della montagna. Su entrambi i lati c'erano casupole di pietra, molte delle quali in rovina ed evidentemente abbandonate. Mentre avanzavano sulla strada di pietra, tenendosi ai lati e riparandosi dietro le casupole in rovina, Yen Li cominciò a notare sempre di più uno schifoso odore sconosciuto. Fece segno alla pattuglia di fermarsi e rimase lì, fermo a fiutare. Diversamente dai suoi pari dei paesi occidentali, era stato selezionato con cura in base a un alto livello di adattabilità intuitiva e addestrato di conseguenza a immaginare ed esplorare possibilità apparentemente fantastiche in ogni situazione, pur dando nello stesso tempo uguale considerazione agli aspetti prosaici e pratici. Si era formato un carattere insieme curioso e impersonale, remoto e sempre in allerta. Non sapeva quando l'addestramento fosse cominciato, perché all'Accademia 23 veniva portato avanti in un contesto di realtà. Non vedeva i suoi insegnanti, le cui istruzioni venivano trasmesse attraverso una serie di situazioni reali. Era nato a Hong Kong ed era vissuto lì fino all'età di 12 anni, perciò l'inglese era la sua seconda lingua. Poi la sua famiglia si era trasferita a Shanghai. Ancora teenager aveva letto gli scritti beat americani. I volumi venivano da Hong Kong ed erano venduti sotto banco in una libreria che sembrava godere di libertà dalle interferenze ufficiali, sebbene il proprietario fosse anche coinvolto in traffici di valuta. A 16 anni Yang Li fu mandato a un'accademia militare dove ricevette un addestramento intensivo all'uso delle armi. Dopo 6 mesi venne convocato nell'ufficio del colonnello e gli fu detto che avrebbe lasciato la scuola militare e sarebbe tornato a Shanghai. Dal momento che si era applicato molto all'addestramento e con ottimi risultati, chiese al colonnello se la ragione fosse che il suo lavoro non era soddisfacente. Il colonnello stava guardando non lui, ma attonito a lui e attorno come disegnando una figura nell'aria. Suggerì in modo obliquo che mentre il desiderio di compiacere i propri superiori era lodevole, c'erano casi in cui altre considerazioni sarebbero state anche più apprezzate. L'odore lo colpì come un muro invisibile. Si fermò e si appoggiò a una casa. Era come un mantello in putrefazione o escrementi di metallo, decise. La pattuglia era ancora nelle periferie in rovina del villaggio. Un uomo stava vomitando violentemente, con la faccia imperlata di sudore. Si raddrizzò e fece per andare al torrente. Yang Li lo fermò. «Non bere l'acqua, non buttartela in faccia! Il torrente passa attraverso il villaggio!» Yan Li si sedette e guardò ancora una volta l'abitato con il suo binocolo. Ancora non si vedeva anima viva. Mise giù il binocolo e condusse un'esplorazione extracorporea del villaggio, ciò che gli occidentali chiamano viaggio astrale. Si stava muovendo, adesso, su per la strada. Il fucile pronto, il fucile sparava scariche di energia e se la sentiva formicolare nelle mani. Aprì con un calcio una porta. Uno sguardo gli disse che le domande erano inutili. Non avrebbe ottenuto nessun tipo di informazione verbale. Un uomo e una donna erano agli stadi terminali di qualche malattia, i volti divorati fino all'osso da piaghe fosforescenti. Una donna più anziana era morta. La capanna dopo conteneva 5 cadaveri, tutti di anziani. In un'altra capanna, un giovane giaceva su un pagliericcio, la metà inferiore del corpo avvolto da una coperta. Capezzoli di carne rosso vivo, alti circa un pollice, a grappoli gli coprivano petto e stomaco e gli spuntavano dalla faccia e dal collo. Le escrescenze assomigliavano a piante esotiche. Notò che trasudavano un umore perlaceo, che corrodeva la carne, lasciando piaghe luminescenti. Sentendosi la presenza di Yan Li, il giovane si voltò verso di lui con un lento sorriso, inarcando il corpo e carezzandosi i grappoli di carne con una mano mentre l'altra scivolava sotto la coperta e si muoveva verso l'inguine. In un'altra capanna, Yan Li intravede una scena che rapidamente cancellò dalla memoria. Avanzò verso il monastero, poi si fermò. Il fucile gli diventò pesante e solido nelle mani quando l'energia lo lasciò. Il suo addestramento non l'aveva preparato alla sensazione di morte che cadeva in una tenace pioggia silenziosa dal monastero sopra di lui. Il monastero doveva contenere una forza mortale, probabilmente qualche forza di radioattività, forse fissione paranormale. Immaginò pure che la malattia se affliggeva agli abitanti del villaggio fosse un ceppo di virus radioattivo. Sapeva che in Occidente la ricerca top secret si muoveva in questa direzione. Fin dalla Seconda Guerra Mondiale, l'Inghilterra aveva sviluppato un virus radioattivo che era stato soprannominato Baco del Giorno del Giudizio. Ritornando al proprio corpo, Yan Li soppesava le sue osservazioni e sospetti. Cos'era che aveva intravisto e da cui era affrettato a distogliere lo sguardo? Minuscole creature come scampi traslutici che si nutrivano ai capezzoli di carne e qualcos'altro. Non si sforzò, sapendo che era una reazione protettiva e biologica, la schermava da una conoscenza che era incapace di assimilare e di far propria. Il monastero probabilmente conteneva un laboratorio e il villaggio era stato usato come terreno di prova. Come si proteggevano i tecnici dalle radiazioni? Oppure i tecnici erano stati immunizzati da esposizioni per dosi progressive? Il laboratorio conteneva una sofisticata installazione di radiazione mortale di orgoni, la RMO? Prese un walkie-talkie. Pre-conversazione, chiama linea morta. Beh? La voce del colonnello era fredda, con un filo di impazienza astratta. gli ufficiali cadetti dovevano far ricorso alla loro iniziativa quando erano in pattuglia e chiamare solo in caso di emergenza. Lian Li raccontò quello che aveva visto nel villaggio e descrisse il senso di morte che emanava dal monastero. «È come un muro, non posso passarci attraverso. Certamente i miei uomini non possono passarci. Ritirati dal villaggio e metti il campo. Sono in arrivo una squadra medica e un ufficiale». Capitolo 3. Il dottore è sul mercato. Il dottor Pearson era un tossicomane moderato che si teneva sulle 3 pere al giorno, pochi milligrammi per buco. Un dosaggio del genere poteva sempre tenerlo sotto controllo. Verso la fine di un turno di 8 ore tendeva a essere un po' svogliato e quando ricevette la chiamata di emergenza sperò che non fosse una cosa lunga e non lo trattenesse fuori orario. Certo poteva sempre farsene scivolare una mezza pallina sotto la lingua, ma era uno spreco, e poi gli piaceva essere a letto quando si faceva la sua pera, e sentirla che colpiva dietro al collo e gli scendeva dietro le cosce mentre soffiava il fumo della sigaretta verso il soffitto. Nel prendere la borsa, notò che si era sbucciato le nocche. Non si ricordava dove né quando. Succede quando non si sente dolore. «Ma sembrerebbe morbillo, dottore!» Il dottore guardò con disgusto la faccia del ragazzo. Non aveva simpatia per bambini, adolescenti e animali. La parola carino non esisteva nel suo vocabolario emotivo. C'erano macchie rosse sulla faccia del ragazzo, ma sembravano piuttosto grandi per essere morbillo. «Beh, lo faccia portare qui dentro, infermiera, qualunque cosa sia, lontano dagli altri pazienti. Non è che me ne freghi di quello che si prendono, è soltanto la procedura ospedaliera». Il ragazzo venne spinto sul suo lettino in una stanzetta. Con le dita fredde per la riluttanza, il dottore piegò in giù il suo lenzuolo fino alla vita del ragazzo e notò che non aveva le mutande. «Ma perché è nudo?» scattò rivolto agli infermieri. «Era così quando sono andati a prenderlo, dottore. Beh, avrebbero potuto mettergli qualcosa addosso». Tornò al voltarsi verso gli infermieri. «Ma che cosa fate fermi lì? Andate fuori! E lei, infermiere, cosa sta lì a bocca aperta? Ordina un letto in isolamento!» Il suo umore era sempre perfido quando doveva correre, ma subito dopo una pera sapeva essere gentile in una maniera smorzata e ambigua. Il dottore si voltò ancora verso il ragazzo sul letto. Il suo dovere di medico era chiaro. Ippocrate indicava severamente il lenzuolo. «Beh, immagino che dovrò guardare la piccola bestia nuda!» Tirò giù il lenzuolo fino alle ginocchia del ragazzo. Il ragazzo aveva un'erezione. I genitali e le zone circostanti erano di un rosso vivo come un bikini rosso. Il dottore fece un salto indietro, come avrebbe fatto alla vista di un serpente dal punto di mordere, ma era troppo tardi. Una goccia di seme colpì il dorso della mano destra proprio sulle nocche sbucciate. Lo pulì via con un'esclamazione di disgusto. Si sarebbe ricordato poi di aver sentito un lieve formicolio che al momento non notò, disgustato com'era dal corpo umano. Si chiese perché avesse scelto la professione medica. E questo sozzo bambino gli faceva tardare la sua pera. «Lurida piccola bestia!» esclamò. Il ragazzo ridacchiò. Il dottore gli tirò sul lenzuolo fino al mento. Si stava lavando le mani quando l'infermiera entrò con barella e barelliere per portare il ragazzo in isolamento. Il dottore tirò su col naso. «Mio Dio, ma che cos'è questo odore? Non so cosa sia, infermiera, ma è piuttosto disgustoso. Sembra che il ragazzo sia in uno stato di delirio sessuale. Sembra che emani ancora un odore orrendo. Ordini lo spettro completo. Cortisone, naturalmente. Potrebbe essere un caso di allergia. Gli animali a pelo rosso ne sono particolarmente soggetti. Porti anche i soliti antibiotici. Se la sindrome sessuale continua, non esitate a somministrare della morfina». Il dottore boccheggiò e si strinse un fazzoletto contro bocca e naso. «Portatelo fuori di qui!» Si riferiva sempre a un paziente come la malattia. «Avete un letto per caso di tifo in isolamento?» «No, non l'abbiamo». «Beh, non può stare qui, per favore!» Si era appena messo a letto dopo la sua pera, quando il telefono suonò. Era il capo. «Sembra che abbiamo tra le mani un'epidemia, Pearson. Tutto il personale riprenda servizio all'ospedale immediatamente». «Che fosse quel piccolo lurido ragazzo?» pensò, mentre si vestiva e prendeva la borsa e si avviava a piedi all'ospedale. Vide che c'era un cordone di polizia intorno all'entrata. «Oh, dottore, ecco la sua maschera. L'aiuto a metterla, dottore?» Una vispa ragazzina in una specie di uniforme gli strofinò addosso tutto il suo corpo in modo veramente insolente. E prima che gli mettesse la maschera, il dottore annusò e capì. Era quel piccolo, lurido ragazzo. All'interno la scena era dantesca. Barelle, una di fianco all'altra, nei corridoi, sperma dappertutto sui lenzuoli, sulle pareti e sul pavimento. «Sia prudente, dottore!» Una garrulla e anziana infermiera gli prese il braccio in tempo. «Stia attento a mettere i piedi uno dietro l'altro, dottore. Così va bene. È terribile, dottore. I pazienti più vecchi stanno morendo come mosche». «Non voglio sentire banalità, infermiera. Mi guidi al mio reparto». «Bene, dottore. Può prendere l'ala nord-est, se vuole. Proprio là». Davanti ai suoi occhi c'era ogni forma di coito possibile e immaginabile. Qualsiasi atto disgustoso riuscisse a immaginare era lì. Alcuni di loro si erano stretti a vicenda intorno al collo, federe di cuscini e asciugamani, come se fosse una sorta di spaventosa competizione. Poiché sembrava che questi pazienti, impazziti, rischiassero lo strangolamento, a questo punto il dottore, quasi scivolò sulla merda, ordinò che gli infermieri li legassero, ma non c'erano infermieri disponibili. «Cominceremo con la morfina e una deriva del curaro». Infermiera. «Mi dispiace, dottore, le scorte di morfina sono terminate con i pazienti più vecchi. Verso la fine vanno nei più terribili spasmi, dottore, non sappiamo cosa fare». Il dottore diventò pallido come la morte. A questa terribile informazione cadde sul pavimento, svenuto, con la faccia coperta di chiazze rosse. Quando gli tolsero i vestiti di dosso, anche il suo corpo era infetto e furono osservati orgasmi spontanei. Il dottor Pearson, in seguito, si ristabilì, grazie alla sua tossicomania, e andò a lavorare nell'industria dei sottaceti, in un assennato progetto biologico. I'm so happy, 'cause today I found my friends, they're in my head, I'm so ugly. That's okay, 'cause so are you. Look on me, it's Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Io ringrazio Nirvana, ringrazio anche i milioni e le milioni ascoltatori e ascoltatrici che hanno seguito la lettura dei primi tre capitoli delle Città della Notte Rossa. Io mi scuso per a volte l'incomprensione e gli errori, ma a me piace leggere a braccio, nel senso che non mi preparo mai le letture a casa. Io arrivo qui bello assonnato il martedì mattina e quello che arriva è quello che vi tenete fondamentalmente, con gli errori, gli strafalcioni, il caffè della mattina, quindi inizieremo anche in ritardo. Però il libro è molto molto bello, è molto forte, quindi consiglio l'ascolto a un pubblico, diciamo, temprato, ma anche no, così si tempra. E Radio ZM 12:15, la giornata va avanti, vi lasciamo con una rotazione musicale che sta reggendo alla grande. Abbiamo risolto tutti i problemi che avevamo, ringraziamo un sacco la Club Unit, ringraziamo Dan, salutiamo i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando e supportando. Mi raccomando, ricordatevi di scriverci dei bellissimi messaggi, come è stato stamattina, che hanno chiesto a Riccardo che la deve smettere. Abbiamo capito che è di Rifondazione, ma qui Modena ha anche cagato il cazzo, quindi Riccardo, basta Modena City Rambler, perché ci hanno stufato. Vi lascio ancora con un po' di Nirvana che girano ininterrotti in questa mattina molto, molto interessante, e ci sentiamo dopo. Scriveteci radiozam_chat su Telegram, mi raccomando, mi stavo dimenticando, scriveteci, che non vediamo l'ora di leggere i vostri bellissimi messaggi in radio, e buona giornata di nuovo.